dai respiro, spinge un po' in là. Forse ci vuol cambiare, mi sa che non ce la farà. Mi riesci a sentire in questo rumore? Vieni un po' qua, fammi sentire il mare al centro di questa città. Sai ciò che so, sai la vita che ho, riparati un po', forse ti piove dentro, usa la casa che ho. Ciò che sei.